Siamo in corso d'opera, oggi faremo una conferenza stampa in occasione dell'avvio della discussione al Senato sulla presenza militare italiana in Iraq. Già sono numerose le organizzazioni che stanno aderendo dalle aree cattoliche, dalle aree pacifiste. E la prossima settimana verrà costituito il comitato organizzatore di una manifestazione che si fa in Italia come in tutto il mondo in appoggio alla giornata di mobilitazione che i pacifisti statunitensi stanno organizzando per il 20 marzo, per l'anniversario dell'inizio della guerra in Iraq. Noi cercheremo di riportare in piazza, anche attraverso delle carovane, un percorso che carovane di pace faranno dal nord e dal sud, convergendo poi su Roma nel mese precedente, riportare in piazza la volontà della popolazione italiana. L'Italia è entrata in guerra contro il volere della popolazione, contro la Costituzione, la gente italiana, la popolazione italiana è ancora contraria a quella guerra e il 20 di marzo tornerà in piazza per chiedere innanzitutto che le forze militari italiane si ritirino, ma anche per chiedere una diversa politica del nostro Paese, una politica che sia incentrata sul disarmo, che sia incentrata sulla convivenza pacifica con i popoli, che sia incentrata sulla legalità internazionale.